Lettera 31. Lady Susan a Mrs. Johnson, Upper Seymour Street. Mia cara amica, la creatura che mi tormenta, Reginald, è qui. La mia lettera, che aveva lo scopo di trattenerlo più a lungo in campagna, lo ha spinto a venire in città. Eppure, per quanto desideri che sia lontano, non posso che essere contenta di una tale prova d'affetto. Mi è devoto, anima e corpo. Ti darà lui stesso questo biglietto, che servirà da presentazione perché è ansioso di fare la tua conoscenza. Lascialo passare la serata con te per non correre il rischio che torni qui. Gli ho detto che non sto molto bene e che devo stare da sola e che se dovesse tornare potrebbe esserci un po' di confusione perché è impossibile fidarsi della servitù. Perciò ti prego, tienilo a Edward Street, non sarà una visita pesante per te e ti autorizzo a flirtare con lui quanto vuoi. Allo stesso tempo non dimenticare ciò che mi interessa davvero. Digli tutto ciò che ti viene in mente per convincerlo che mi dispiacerebbe molto se rimanesse qui. Conosci le mie ragioni, la rettitudine e tutto il resto. Insisterei io stessa per averli, ma sono impaziente di liberarmi di lui perché Man Waring sarà qui tra mezz'ora. Adieu, Susan Vernon. Lettera 32. La signora Johnson a Lady Susan. Edward Street. Mia cara bambina, sono in agonia e non so cosa fare né cosa possa fare tu. Il signor De Courcy è arrivato proprio quando non avrebbe dovuto farlo. La signora Manwaring, la moglie del tuo amante, era appena entrata in casa e si era presentata al suo tutore, mio marito. Anche se io l'ho saputo solo dopo, perché ero assente quando lei e Reginald arrivarono, altrimenti l'avrei mandato fuori a tutti i costi, ma lei era chiusa in casa con mio marito, mentre lui mi aspettava in salotto. È arrivata ieri in cerca di suo marito, ma forse te l'ha detto lui stesso, è venuta in questa casa per chiedere a mio marito di intercedere. E prima che me ne accorgessi, lui sapeva tutto quello che tu avresti voluto che non sapesse. E sfortunatamente aveva saputo dalla serva di Manwaring che lui era venuto a trovarti ogni giorno da quando eravate in città. E lei stessa lo aveva appena visto arrivare alla tua porta. Cosa potevo fare? I fatti sono così terribili. A quest'ora De Courcy, che è solo con mio marito, sa tutto. Non accusarmi. In effetti era impossibile evitarlo. Mio marito sospettava da tempo che De Courcy avesse intenzione di sposarti e voleva parlargli da solo non appena avesse saputo che era in casa. Quella detestabile signora Manwaring è per la tua tranquillità è più magra e più brutta che mai. È ancora qui. E sono stati chiusi insieme nel salotto. Cosa possiamo fare? Se Manwaring è con te, è meglio che se ne vada. Cordiali saluti, Alicia. Lettera 33. Lady Susan a Mrs. Johnson, Upper Seymour Street. Oh, questo chiarimento è piuttosto irritante. Che sfortuna che tu non fossi a casa. Ero sicura che saresti arrivata alle 7, tuttavia non mi sono scoraggiata. Non tormentarti con paure che mi appartengono. Sono sicura di poter inventare una bella storia da raccontare a Reginald. Manwaring è appena partito. Mi ha portato la notizia dell'arrivo di sua moglie. Che donna sciocca! Ma cosa si aspetta con queste manovre? Tuttavia vorrei che fosse rimasta tranquillamente a Langford. Reginald, sì, sarà un po' arrabbiato all'inizio, ma vedrai che entro l'ora di cena di domani tutto tornerà alla normalità. Adieu, Susan Vernon. Lettera 34. Mr. De Courcy a Lady Susan, Hotel. Vi scrivo solo per salutarvi. Il fascino è evaporato. Vi vedo così come siete. Ieri, mentre ci separavamo, una persona di indiscussa autorità mi ha raccontato una storia su di voi che mi costringe alla più mortificante convinzione dell'illusione che ho subito e dell'assoluta necessità di una separazione immediata ed eterna da voi. Non potete dubitare della situazione a cui mi riferisco. Langford, Langford, questa parola è sufficiente. Questa informazione mi è stata data dalla stessa signora Manwaring a casa del signor Johnson. Sapete quanto vi ho amata, quindi potete giudicare a lungo quali sono i miei sentimenti attuali, ma non sono così debole da ricrearli a una donna che sarà orgogliosa di aver provocato la mia angoscia, pur non essendo riuscita a conquistare il mio affetto. Reginald De Courcy. Lettera 35. Lady Susan al signor De Courcy, Upper Seymour Street. Non cercherò di descrivere il mio stupore nel leggere la vostra nota che ho appena ricevuto. Sono confusa e cerco di ipotizzare qualcosa di ragionevole che la signora Mainwaring possa avervi detto per provocare un cambiamento così straordinario nei vostri sentimenti. Non vi ho forse dato spiegazioni su ogni cosa che potesse mettere in dubbio la mia persona e che la natura malvagia del mondo avrebbe interpretato a mio discredito? Che cosa potreste mai sapere ora per far sì che la vostra stima nei miei confronti sia così scossa? Vi ho mai nascosto qualcosa, Reginald? Mi disturbate al massimo. Non credo che la vecchia storia della gelosia della signora Mainwaring rivivrà di nuovo e tanto meno si sentirà ancora parlare di lei. Tornate subito da me e spiegatemi ciò che ora è del tutto incomprensibile. Credetemi, la sola parola Langford non contiene così tante informazioni da non richiedere ulteriori dettagli. Se dobbiamo separarci, almeno siate buone e salutatemi personalmente. Ma non ho molta voglia di scherzare, sono molto seria, perché aver perso la vostra stima anche solo per un'ora è un'umiliazione alla quale non sono disposta a sottomettermi. Conterò ogni istante fino al vostro arrivo. Susan Vernon. 36. Mr. De Courcy a Lady Susan, Hotel. Perché mi scrivete? Perché mi chiedete dettagli? Ma poiché devo essere sincero, sono costretto a dichiarare che tutto ciò che mi è stato detto sulla vostra cattiva condotta durante la vita del signor Vernon e dopo la sua morte, tutte le storie che sono giunte alle mie orecchie, così come a quelle di tutti gli altri, e alle quali credevo pienamente prima di incontrarvi, ma che voi, con la vostra malvagia abilità, mi avete fatto credere non vere, mi sono state inconfutabilmente dimostrate. Inoltre sono certo che da tempo esisteva ed esiste tuttora una relazione di cui non ho mai nutrito il minimo sospetto tra voi e l'uomo la cui famiglia avete privato della pace di cui godeva in cambio dell'ospitalità con cui siete stata accolta. Che da quando avete lasciato Langford siete sempre stata in corrispondenza con lui, non con sua moglie, ma con lui, e che ora vi fa visita ogni giorno. Osate negarlo? E tutto questo mentre mi provocavate, mi prendevate per amante? Da cosa sono stato risparmiato? Posso solo ringraziare la sorte, la mia stessa follia mi ha messo in pericolo. E se sono vivo lo devo alla gentilezza e all'integrità di Mr. Johnson. Ma la misera signora Mainwaring, la cui disperazione nel raccontarmi ciò che era accaduto in passato sembrava minacciare la sua sanità mentale, come può trovare conforto, poveretta? Dopo aver scoperto tutto questo, non vi sorprenderà la mia intenzione di congedarmi da voi. Ho recuperato pienamente la mia comprensione. E questa mi mostra sia la repulsione per le astuzie con cui mi avete soggiogato, sia il disprezzo per me stesso, per la debolezza su cui si basava la forza della vostra presa. Reginald De Courcy. Lettera 37. Lady Susan a Mr. De Courcy, Upper Seymour Street. Sono soddisfatta e quando vi avrò inviato queste righe non vi disturberò mai più. Il fidanzamento a cui eravate così impaziente di partecipare 15 giorni fa non è più compatibile con le vostre idee e sono felice di sapere che il prudente consiglio che i vostri genitori vi hanno dato non è stato vano. Non ho dubbi che dopo questo atto di obbedienza filiale ritroverete la pace e mi congratulo con me stessa nella speranza di sopravvivere alla mia parte di delusione. Susan Vernon. Lettera 38. Mrs. Johnson a Lady Susan Vernon, Edward Street. Sono addolorata, anche se non sorpresa, della tua rottura con Mr. De Courcy. Egli ne ha appena informato Mr. Johnson per lettera. Dice che lascerà Londra oggi stesso. Puoi essere certa che condivido i tuoi sentimenti e non arrabbiarti se ti dico che i nostri rapporti, anche per lettera, dovranno presto cessare. Questo mi rattrista, ma Mr. Johnson, mio marito, giura che se continuerò la mia amicizia con te, si stabilirà in campagna per il resto della sua vita, e sai che è impossibile accettarlo se c'è un'alternativa. Hai saputo naturalmente che i Mainwaring si stanno separando. Temo che la signora Mainwaring tornerà a casa nostra, ma ama ancora così tanto suo marito e si preoccupa così tanto per lui che potrebbe non vivere a lungo. La signorina Mainwaring È appena arrivata in città per stare con la zia e si dice che abbia dichiarato che Sir James Martin sarà di nuovo suo prima di ripartire da Londra. Se fossi al tuo posto, non esiterei a cercarlo per conto mio. Avevo quasi dimenticato di darti la mia opinione su De Courcy. Ne sono davvero affascinata. Lo trovo bello come Mainwaring ed è così aperto e di buon umore che non si può non amarlo subito. Mr. Johnson e lui sono diventati i migliori amici del mondo. Addio, mia carissima Susan. Vorrei che le cose non fossero andate così male. Quella sfortunata visita a Langford, ah! Ma oserei dire che è stato tutto per il meglio e nessuno sfugge al destino. Con sincero affetto, Alicia. Lettera 39. Lady Susan a Mrs. Johnson, Upper Seymour Street. Mia cara Alicia, mi arrendo alla necessità che ci separa. Date le circostanze, non si poteva agire diversamente. La nostra amicizia non può essere compromessa da questo e in tempi più felici, quando sarai in una situazione indipendente come la mia, cioè vedova, saremo di nuovo vicine, come sempre. Non vedo l'ora. E nel frattempo posso assicurarti che non mi sono mai sentita così bene o così soddisfatta di me stessa e di tutto ciò che mi riguarda, come in questo momento. Aborro tuo marito, disprezzo Reginald e sono certa che non rivedrò mai più nessuno dei due. Non ho forse motivo di rallegrarmi? Mainwaring è più attento a me che mai e se fossi libera dubito che riuscirei a resistere anche al matrimonio se me lo proponessero. Per accelerare questo evento, se la moglie vive con voi, potrebbe essere nelle vostre mani. I suoi sentimenti veementi che devono consumarla possono essere facilmente mantenuti in uno stato di irritazione. Conto sulla tua amicizia per questo. Ora sono felice di non aver mai sposato Reginald e sono altrettanto determinata a non farlo mai con Frederica. Domani andrò a prenderla a Churchill e lascerò che Maria Mainwaring tremi per le conseguenze. Frederica sarà la moglie di Sir James prima di lasciare la mia casa. Lei può lamentarsi e i Vernon possono tuonare, non mi interessa. Sono stanca di sottomettere la mia volontà ai capricci degli altri, di abbandonare il mio giudizio ad altri verso i quali non ho alcun obbligo e per i quali non ho alcun rispetto. Ho ceduto troppo, sono stata troppo facile da manipolare, ma ora Frederica capirà la differenza. Addio, mia carissima amica. Che il prossimo attacco di gotta sia più favorevole per te e che tu possa considerarmi sempre comunque tua, Susan Vernon. Lettera 40. Lady De Courcy alla signora Vernon. Parchi. Mia cara Catherine, figlia mia, ho una notizia meravigliosa per te e se non avessi inviato la mia lettera stamattina ti sarebbe stato risparmiato il dispiacere di sapere che Reginald è andato in città, perché è tornato. Reginald è tornato non per chiedere il nostro consenso a sposare Lady Susan, ma per dirci che si sono separati per sempre. È arrivato a casa solo da un'ora e non sono riuscita a sapere i particolari perché è così abbattuto che non ho avuto il coraggio di fargli domande, ma spero di sapere tutto molto presto. Questo è il momento più felice che ci abbia mai regalato dal giorno della sua nascita. Non vogliamo nulla, solo che siate qui con noi e in particolare desideriamo e vi chiediamo di venire il prima possibile. Sono molte settimane che non ci fate visita. Spero che Mr. Vernon non abbia nulla da obiettare e vi prego, cara figlia, di portare tutti i miei nipoti, compresa naturalmente la vostra cara nipote Frederica, che sono molto ansiosa di vedere. Finora l'inverno è stato tetro e pesante, senza Reginald e senza vedere nessuno di Churchill. Questa stagione non è mai stata così tetra per me, ma questo felice incontro ci ringiovanirà tutte. Penso molto a Frederica e quando Reginald avrà recuperato il suo solito buon umore, come spero farà presto, cercheremo di rubarle di nuovo il cuore e ho grandi speranze di vedere le loro mani unite tra non molto. Con affetto, vostra madre. Lettera 41. Mrs. Vernon a Lady De Courcy, Churchill. Mia cara madre, la vostra lettera mi ha molto sorpresa. È vero che si sono separati? E per sempre? Oh, mi riempirebbe di tale gioia se osassi fidarmi, ma dopo tutto quello che ho visto, come posso esserne sicura? E Reginald è davvero con voi? Oh, la mia sorpresa è ancora più grande perché mercoledì, proprio il giorno in cui è arrivato a Parklands, abbiamo ricevuto la visita inaspettata e sgradita di Lady Susan, tutta allegria e buon umore, con l'aria di volerlo sposare al suo ritorno in città, più che di essersi separata da lui per sempre. Rimase quasi 2 ore, fu più affettuosa e piacevole che mai e non pronunciò una sillaba, né un accenno a differenze o freddezze tra loro. Le chiesi se avesse visto mio fratello dal suo arrivo in città, non avendo, come potete immaginare, alcun dubbio al riguardo, ma solo per vedere l'espressione del suo viso. E lei rispose subito, senza arrossire, che lui era stato così gentile da venire a trovarla lunedì, ma che pensava che fosse già tornato a casa, cosa che ero ben lontana dal credere. Accettiamo volentieri il suo gentile invito, il vostro gentile invito, e martedì prossimo saremo tutti con voi, quindi preghiamo il cielo che Reginald non sia più in città. Vorrei poter portare con noi anche la nostra cara Frederica, ma mi dispiace informarvi che il motivo che ha spinto sua madre a venire qui è stato quello di portarla via. E per quanto la povera ragazza apparisse disperata, non è stato possibile impedirlo. Io ero assolutamente contraria a lasciarla andare, così come suo zio. Ci siamo appellati a tutto ciò a cui ci si poteva appellare, ma Lady Susan dichiarò che, poiché stava per stabilirsi in città per diversi mesi, non si sarebbe sentita a suo agio se la figlia non fosse stata con lei per studiare e così via, bla bla bla. In verità i suoi modi sono stati molto gentili e corretti, e il signor Vernon pensa che ora tratterà Frederica con affetto. Vorrei poterlo pensare io stessa. La povera ragazza aveva un'espressione molto triste quando si è congedata da noi. Le chiesi di scrivermi spesso e di ricordarsi che se si fosse sentita in difficoltà avrebbe sempre potuto contare sulla nostra amicizia. Ho cercato di trovare un momento per parlarle da sola e raccontarle tutto questo e spero di averle dato un po' di conforto, ma non mi tranquillizzerò finché non andrò in città e non vedrò la situazione con i miei occhi. Vorrei che ci fossero prospettive migliori di quelle che sembrano esserci ora per la coppia di cui esprimete le speranze alla fine della vostra lettera, e cioè Frederica e Reginald, vostra figlia Catherine Vernon. Conclusione. Questa corrispondenza, a causa della riunione di alcune parti e della separazione di altre, non poteva continuare a lungo, con grande danno per le entrate delle poste. Lo scambio epistolare tra la signora Vernon e la nipote non fu di grande aiuto allo Stato, poiché la prima intuì ben presto, dallo stile delle lettere di Frederica, che erano state scritte sotto la supervisione della madre, e quindi rimandò le domande più intime a quando avrebbe potuto farle personalmente in città, affinché non smisero di scriversi a lungo e spesso. Nel frattempo, avendo sentito abbastanza dall'onesto fratello ciò che era passato tra lui e Lady Susan da rendere la sua opinione di quest'ultima peggiore che mai, era proporzionalmente più desiderosa di separare Frederica da una madre del genere e di averla affidata alle sue cure, e anche se con poche speranze di successo, era decisa a tentare ogni cosa in suo potere per avere una possibilità di ottenere il consenso della cognata. La sua inquietudine al riguardo la spinse a insistere per andare presto a trovarli a Londra, e il signor Vernon, che, come la lettrice avrà notato, viveva solo per fare ciò che gli veniva richiesto dalla moglie, trovò presto un'attività conveniente che lo impegnava proprio lì. Con il cuore pieno di cose da dire sull'argomento, la signora Vernon fece visita a Lady Susan poco dopo il suo arrivo in città, e quest'ultima la accolse con un affetto così semplice e allegro che fu sul punto di allontanarsi da lei con orrore. Non c'era nessun ricordo di Reginald, nessun senso di colpa, nessun accenno di turbamento. Era di ottimo umore e sembrava impaziente di dimostrare subito, con tutte le attenzioni possibili, al cognato e alla cognata il suo senso di gentilezza e il piacere della loro compagnia. Frederica non era cambiata più di Lady Susan. Lo stesso atteggiamento trattenuto, la stessa espressione timida di sempre in presenza della madre, confermavano alla zia che la sua situazione era imbarazzante. E ribadivano il suo progetto di cambiarla. Lady Susan, tuttavia, si comportò con assoluta gentilezza. La questione di Sir James era conclusa. La signora fece appena il suo nome per dire che non era a Londra e durante tutta la conversazione si preoccupò solo del benessere e del miglioramento della figlia, riconoscendo con grato piacere che Frederica era ormai sempre più ciò che una madre poteva desiderare. Mrs. Vernon, sorpresa e incredula, non sapeva cosa sospettare e senza modificare i suoi obiettivi temeva solo di avere più difficoltà a realizzarli. La prima speranza di qualcosa di meglio nacque dal fatto che chiese a Lady Susan se pensava che Frederica fosse in forma, come quando era a Churchill, perché doveva confessare che a volte dubitava con preoccupazione che Londra fosse il posto adatto per lei. La signora Vernon alimentò la fiamma del dubbio e propose direttamente alla nipote di tornare con loro in campagna. Lady Susan non sapeva come esprimere quanto apprezzasse una simile gentilezza. Tuttavia, per varie ragioni, trovava difficile separarsi dalla figlia e, sebbene i suoi piani non fossero ancora stati elaborati, era fiduciosa di poter presto portare Frederica in campagna lei stessa e quindi rifiutò del tutto queste impareggiabili attenzioni. Mrs. Vernon, tuttavia, perseverò nell'offerta e, sebbene Lady Susan continuasse a resistere, nel corso di qualche giorno la sua resistenza sembrò indebolirsi un po'. Il fortunato allarme che era scoppiato un'epidemia di influenza decise ciò che avrebbe potuto non essere deciso così presto. I timori materni di Lady Susan erano ormai sufficientemente risvegliati perché non pensasse ad altro che a preservare Frederica dal rischio di contagio. La cosa che la spaventava di più, al di sopra di tutte le malattie del mondo, era l'influenza a causa della costituzione della figlia. Così Frederica tornò a Churchill con gli zii e 3 settimane dopo Lady Susan annunciò di aver sposato Sir James Martin. Mrs. Vernon si convinse allora di ciò che prima aveva solo sospettato, ovvero che avrebbe potuto risparmiarsi la fatica di affrettare una separazione che Lady Susan aveva senza dubbio già deciso fin dal primo momento. La visita di Frederica era inizialmente prevista per 6 settimane, ma la madre, pur invitandola a tornare in una o due lettere affettuose, fu molto pronta a condiscendere a tutta la comitiva per prolungare il suo soggiorno. E nel corso di 2 mesi cessò di parlare della sua assenza nelle sue lettere e alla fine di 2 mesi smise del tutto di scriverle. Di conseguenza, Frederica fu lasciata vivere con gli zii fino a quando non fosse arrivato il momento in cui Reginald De Courcy avrebbe potuto parlarle, lusingarla e avvicinarla con astuzia, il che, considerando il tempo necessario per superare l'attaccamento alla madre, il rifiuto di futuri rapporti e relazioni e l'avversione per le donne che nel frattempo aveva sviluppato, poteva ragionevolmente richiedere circa 12 mesi. In generale 3 mesi sarebbero stati sufficienti, ma i sentimenti di Reginald non erano meno duraturi di quanto fossero forti. Se Lady Susan fosse o meno soddisfatta della sua seconda scelta, non vedo come si possa mai sapere, perché chi le crederebbe se assicurasse l'uno o l'altra cosa? Di fatto sposò lei stessa l'uomo che avrebbe voluto far sposare a sua figlia. Il mondo deve giudicare come crede, lei non aveva nulla contro di lui se non suo marito e la sua coscienza. Sir James può sembrare che abbia incontrato un destino più duro di quanto la semplice follia meritasse. Lo lascio quindi a tutta la pietà che si può provare per lui. Per quanto mi riguarda, confesso che posso solo compatire Miss Mainwaring, che andando in città si è impoverita per 2 anni a causa della quantità di denaro che ha dovuto spendere in vestiti al fine di conquistarlo, e ha visto i suoi piani frustrati da una donna di 10 anni più vecchia di lei. Fine.